as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, oggi 5 di maggio, abbiamo avuto il 25 aprile, c'è stato il 1 maggio, molti ascoltatori si sarebbero aspettati una puntata che parlasse di resistenza, che parlasse di lavoro, lo faremo, ma parleremo di quello che sta accadendo ai nostri compagni nel Mediterraneo. Il 30 aprile c'è stata una manifestazione, un presidio, dopo il blocco dei 175 attivisti, il rapimento dei 175 attivisti della flottiglia. Noi siamo stati con loro, siamo stati al Festival della Letteratura, Working Class Letteratura, a Firenze, in cui si stavano preparando i compagni a partire, ci sono i nostri compagni della GKN lì, non sono stati per adesso ancora... non sono stati detta quelli rapiti il 30 aprile, e diciamo che dobbiamo parlare di questo perché è fondamentale che in questo momento ci si mobiliti, perché è un atto di resistenza, perché se si parla della resistenza al fascismo oggi, certo il fascismo non è che è scomparso, ma oggi in questo momento nel mondo il sionismo è una forma di fascismo molto pericolosa, perché rischia veramente di far scoppiare una terza guerra mondiale. Poi ne parleremo nelle conclusioni. Qui vi dico solo che oggi parleremo di questo. Abbiamo intervistato il 30 aprile Tarek, un giovane palestinese, poi abbiamo intervistato Cafoglio, il segretario della scuola, CGL Scuola. Abbiamo intervistato Tarek perché io l'ho sentito intervenire nel Nettuno e ho pensato di intervistarlo perché ha tante cose, chiaramente... questa intervista è stata breve, nell'intervento fatto Piazza Nettuno è stato molto più lungo, però era interessante sentire quello che oggi i palestinesi che vivono in Italia pensano e come vivono. E poi abbiamo intervistato Cafori perché la CGL era in piazza, c'erano anche gli altri sindacati, e chiaramente poi cercavo di intervistare, non sono riuscito, ma c'erano anche gli altri sindacati, l'SB era presente chiaramente, c'erano anche gli altri. Erano, se non c'erano le bandiere, ma comunque c'erano come militanti, gli altri sindacati erano presenti, ma c'era la CGL, cioè, ed è questo importante perché, poi lo diremo nelle conclusioni, è un primo passo, questo, la presenza della CGL in piazza, che non era scontato, per altri, per me chiaramente che è scontato, e niente, adesso ascoltiamo un pezzo molto carino, ma di resistenza, di lotta e di battaglia, perché ripeto, i nostri partigiani oggi attuali li possiamo trovare su quelle navi che ancora cercano di arrivare a portare gli aiuti a Gaza, di rompere il blocco. Poi ci sentiamo per le conclusioni, a dopo. Dagli spacca, spingi, spingi, spingi, spingi. Free, free Palestine. Dillo tutte le mattine, taglia, spacca, spingi. Fa già meglio ma tu insisti. Spingi, spingi, spingi. Non c'hai altre alternative. Free, free Palestine. Come? Free, free Palestine. Agli assassini per dormire ora serve il fentanyl, perché i morti tornano di notte come Fedain. È un po' tardi adesso per godere dei tuoi sogni, occupante nazi della casa che era dei suoi nonni. Rivoluzionario questo tempo, sparo dopo sparo. L'hai capito da che parte stare, è tutto più chiaro. Bambini in fila per il cibo fatti a pezzi, giornalisti uccisi per gridare al mondo siete mostri. Per la terra, per la libertà, per il ritorno, per la Palestina libera come era un giorno. I miei abbassano all'attacco per forzare il blocco, anch'io sono in cammino altrimenti sbrocco. E questa flotta va, questa lotta fa venire il desiderio di averla anche per noi, la libertà prendetela sul serio. Non saremo mai zitti e indifferenti, a vedervi nelle strade siete commoventi. Non vi lasceremo mai, spacca, spingi. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Spingi, spingi, spingi. Alto sulle piazze fra le vostre tende, non ci arrenderemo mai. Ogni popolo del mondo tiene alta la bandiera degli oppressi. Ciao, io sono questo compagno palestinese, raccontaci chi sei e oggi siamo qui in piazza per i nostri compagni arrestati. Ciao, sono Tarek dei Giovani Palestinesi, oggi siamo scesi in piazza nuovamente per condannare quella che è un'operazione criminale sionista di rapimento di persone, di civili che in questo momento stanno cercando di sfidare un blocco criminale imposto sulla Palestina e su Gaza oramai da anni. Un blocco che in questi ultimi 2 anni abbiamo visto ha ridotto alla fame e alla distruzione la striscia di Gaza. Quindi in questo senso noi oggi scendiamo nuovamente in piazza perché siamo dell'idea che la flottiglia abbia un ruolo e il suo ruolo è proprio quello di riportare l'attenzione su quello che Israele e il sionismo in questo momento sta facendo in tutta la regione. Allora, la cosa che mi ha colpito del tuo intervento, e ti ho ascoltato, è la questione della sicurezza. Tu hai detto delle cose importanti, mi piacerebbe che tu anche i nostri ascoltatori sapessero le cose che tu hai detto, perché ti senti insicuro, anch'io mi sento insicuro. Esatto, questo termine, insomma, questo pretesto della sicurezza è proprio pretestuoso, nel senso che è utilizzato in realtà per silenziarci, per incarcerarci, per rimandarci, insomma, ai paesi di origine dalla quale siamo stati costretti ad andarcene via proprio per una complicità dell'Europa e del nostro Stato. Quindi in questo senso noi ci sentiamo totalmente insicuri, lo abbiamo visto anche nella città di Bologna, dove chi manifesta rischia di perdere addirittura un occhio cercando di esprimere il proprio dissenso. Quindi insomma riconosciamo come tutta la questione della sicurezza in realtà è totalmente un pretesto. Oggi abbiamo dei compagni palestinesi che sono in galera. Esatto, questo è un chiaro esempio di questa... Di come appunto questa sicurezza viene imposta oggi in Italia. I palestinesi non solo rischiano il carcere in Palestina, ma oggi i palestinesi rischiano il carcere fuori dalla Palestina per mandato di Israele. C'è un partigiano palestinese in Italia oggi, Anania Ish, che si trova in carcere e che ha preso 5 anni e 6 mesi in primo grado perché ha deciso di resistere a casa propria a toccare contro l'occupazione sionista, ma non solo. C'è Ahmed Salem che è venuto qua per in ricerca di protezione internazionale da un campo profughi in Libano e per il cosiddetto terrorismo della parola che è stato insomma inserito nel primo DDL sicurezza. Oggi anche lui è condannato a anni di carcere, ma ci sono anche i compagni di API, dell'Associazione Palestinese d'Italia, che siccome hanno deciso di mandare soldi, aiuti umanitari a Gaza, oggi si trovano in carcere. Oggi non si può parlare, dunque, non si può, si rischia la galera. Esattamente, oggi il fascismo, il sionismo è qua, ma noi l'abbiamo sempre detto, noi sappiamo che questa non è una svolta repressiva dell'ultimo minuto, ma è un sistema che è un sistema che lucra insomma sulla guerra, e nel momento in cui uno attacca questo sistema, chiaramente il sistema risponde per reprimere e continuare a fare profitto sulla morte e sulla vita dei popoli oppressi in giro per il mondo. La cosa che ti chiedevo, e torniamo ai nostri compagni arrestati, tu hai notizie di quello che sta succedendo in questo momento, di quello che è successo stanotte? Le ultime notizie, ma che non sono accertate perché insomma certo, le ho sentite da altre persone, è che questi compagni saranno rilasciati in Grecia. Ci sono altrettanti compagni che non sono stati insomma rapinati dalle forze di occupazione, sì, ma che comunque sono stati invitati, fra virgolette, a non ripartire. Io sono sicuro che questi compagni sanno benissimo da che parte stare ed è dalla parte della giustizia e quindi dalla parte di chi cercherà di comunque sfidare questo blocco e di andare verso Gaza. Oggi è una giornata importante, si spera che si possa ritornare alle battaglie di autunno che hanno visto scioperi, che hanno visto grandi manifestazioni in tutta Italia. Noi lo speriamo, però per far ciò bisogna imparare innanzitutto a guardare alle condizioni in cui ci troviamo in questo paese. Non deve essere la flottiglia, solo la flottiglia a farci muovere, a mobilitare, ma anche semplicemente notare come questo paese stia andando verso, verso la guerra, verso il riarmo, e nel frattempo, andando verso la guerra e il riarmo, ci sono tagli sulla scuola, sulla sanità. Questo ci deve importare. La Palestina chiaramente è una cartina di tornasole di questo sistema di guerra, ma non serve la Palestina per accorgerci che tutto ciò non va bene e che dobbiamo mobilitarci contro questo sistema. Hai raccontato il fatto del 25 aprile, di quel sembra un sionista abbia sparato ad un corteo, tu l'hai detto, ed è vero, cioè siamo talmente insicuri che rischiamo anche il giorno della liberazione dal fascismo, si rischia di essere sparati da uno della pare della vicino al sionismo. Assolutamente, assolutamente. Questo è il sionismo, non è qualcosa di nuovo per noi. Ovviamente la comunità ebraica, la brigata ebraica in questo momento sta cercando di etichettarlo come una mela marcia. Certo. Noi in realtà sappiamo benissimo che non è una mela marcia, ma è parte di un'ideologia che è l'ideologia sionista, che è un'ideologia che si espande e pensa che il mondo sia proprio. Sì. Pensa di poter agire in maniera impunemente ovunque nel mondo. E di fatto questa persona oggi ha sparato in una piazza durante il 25 aprile, durante una giornata di festa per quella che è la liberazione partigiana, e non è un caso, perché sappiamo che in questi anni anche chi è sceso durante il 25 aprile per la liberazione partigiana riconosce la connessione fra la resistenza partigiana italiana e quella che è la resistenza palestinese. Quindi in questo senso la Brigata Ebraica, che è di fatto un'organizzazione sionista, un'organizzazione che ha portato il volto di Netanyahu come volto da celebrare il 25 aprile, che ha portato la bandiera sionista, che è una bandiera criminale per noi, non è un caso che oggi compia questo tipo di atti. Ricordiamo che c'erano anche degli ebrei, i quali si sono dissociati, hanno portato una bandiera per gli ebrei contro il sionismo il 25 aprile a Milano, la stessa piazza, e sono stati accolti. Assolutamente, Israele, l'operazione che cerca di fare Israele è quella di pretendere di poter rappresentare tutti gli ebrei nel mondo. Invece esistono tantissime comunità sempre più visibili, che alzano sempre più la voce, che si oppongono al sionismo, comunità ebraiche antisioniste oramai ci sono ovunque nel mondo, ce l'abbiamo qua in Italia, ma ce l'abbiamo in tutto l'Occidente. Lo ricordiamo a chi ci ascolta, perché noi non siamo antisemiti, ma siamo antisionisti, che è una cosa ben diversa. Esatto, esatto. Non è un caso che anche la sinistra parlamentare di questo paese, se pensiamo al DDL del Rio, cerchi di mettere le due assieme, ma noi sappiamo benissimo che sono due cose ben diverse. Il sionismo è un fascismo e noi ci opponiamo a qualsiasi tipo di fascismo. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. Allora, siamo qui in piazza Solidarietà per la Flottiglia. C'è anche la CGIL, ho incontrato il segretario della CGIL Scuola, Caforio. Allora, CGIL è qui in piazza. Sì, la CGIL è in piazza oggi perché ancora una volta hanno bloccato la flottiglia, ancora una volta la flottiglia ha bisogno del suo equipaggio di terra, e quindi anche oggi la CGIL, i lavoratori e le lavoratrici sono in piazza, sono nelle piazze d'Italia che in questo momento si stanno mobilitando oltre a Bologna, perché l'assedio va rotto via mare, ma va rotto anche via terra, e questo assedio parte dalla Palestina, arriva fino a Cuba. Siamo di fronte all'ennesimo attacco di Israele in violazione degli accordi e del diritto internazionale. Ci abbiamo un governo che dovrebbe, e chiediamo di intervenire perché ripristini il diritto internazionale. Chiediamo poi al governo che sospende ogni accordo con Israele, accordi con cui invia armi, con cui sta inviando armi non solo a Israele ma anche ad altri paesi belligeranti. Chiediamo, e siamo in piazza perché chiediamo, che le risorse non vengano più destinate alle armi, ma le risorse del paese vengano destinate alla scuola, alla sanità pubblica, allo stato sociale, vengano destinati ai salari, ai rinnovi dei contratti. Poi deve cadere la maschera di questa guerra, perché la tregua non c'è mai stata in Palestina. Il genocidio è andato avanti, sta andando avanti fino ad oggi, e chiediamo che a quella terra martoriata arrivino per davvero gli aiuti umanitari. E poi, oltre alla chiusura dei rapporti con cui mandiamo armi, l'altro gesto politico che finalmente questo Stato deve fare, il nostro governo deve fare, è quello di riconoscere lo Stato di Palestina, una volta per tutte. Senti, allora, giustamente c'è la CGIL, non solo la CGIL, ci sono anche gli altri sindacati, poi vedo se riesco a intervistarli. Ottobre c'è stata una grande mobilitazione che a un certo punto ha fatto anche la storia delle mobilitazioni dei lavoratori italiani, perché per la Palestina ci sono stati gli scioperi generali unitari unici da quando io sono un po' 30 anni che faccio, mi occupo di sindacato, anche di più, e non avevo mai visto cose del genere. Si può ripartire questa volta con un'unità sugli intenti, sul programma che tu hai presentato, che penso che è un programma condiviso da tanti sindacati, si può trovare una quadra? Io quando sento parlare di perimetri, di campi larghi, di campi di questo tipo, più che a quello io guardo a definire campi di battaglia, anche okay. se è brutto dirla, no, la parola, giusto, battaglia, giusto, ma di battaglia sociale. Perché in realtà quello che abbiamo visto da ottobre fino ad oggi è il fatto che esiste un movimento. Io dico, si è aperta una finestra sulla storia, e quando si aprono finestre di questo tipo tu non puoi stare lì a guardare, devi scegliere, o stai da una parte o stai dall'altra, e da ottobre fino ad oggi è stato così. Infatti vediamo che abbiamo piazze in cui le chiamate sono spontanee, la gente si mobilita spontaneamente. Quando hai questo genere di mobilitazione, c'hai davanti un periodo della storia in cui si stanno ridefinendo anche, come dire, gli assetti politici, gli assetti economici, ed è il momento in cui bisogna scendere in piazza una volta in più, bisogna organizzarsi, organizzare i lavoratori tutti insieme. Più si è, meglio è, perché organizzare i lavoratori significa organizzarli trasversalmente, organizzarli oltre i confini dei propri luoghi di lavoro e dei propri territori. Questo vuol dire portare in campo attori che rivendicano un pezzo di dignità dentro quel campo di battaglia, e il lavoro è un terreno di battaglia, è un terreno di scontro, è un terreno d'attacco da parte di tanti soggetti, e sta a noi difenderlo. Anche perché se vogliamo che il governo faccia questo, tutto quello che tu hai detto, bisogna fare degli scioperi generali che lo convincono seriamente che non gli conviene continuare a avere rapporti con Israele, certo, stare con Israele, appoggiare Israele, essere il servo di Israele. Certo, la politica internazionale in questo momento stiamo vedendo come abbiamo un governo che sta cercando una nuova narrazione. La scusa della rottura politica con l'America per via dell'attacco al Papa in realtà è stata, certo, una rottura più lunga, più anziana, che deriva dal fatto che la politica di Trump ormai è insostenibile, ed è insostenibile anche per il consenso stesso della Meloni. La Meloni sta cercando una nuova narrazione, si sta cercando anche di riorientarsi, però è il momento in cui ormai da 2 anni noi abbiamo delle leggi di bilancio che stanziano miliardi su miliardi di euro per la guerra, che stanno invece togliendo miliardi e miliardi di euro alla sanità, allo stato sociale, ai salari. Ok, io ti ringrazio, grazie mille Caforio, e in bocca al lupo, speriamo che arrivi su sciopero generale unitario il prima possibile. Grazie a te, a presto. Per Global Summit Flottiglia c'è una voce che spezza il silenzio da tempo che fa free free Palestine. Arriva flotta dal fondo, sulle onde del mare, da ogni parte del mondo, con voglio di pace. Porta voce e supporto chi muore ogni giorno, fra piogge di piombo e le bombe su Gaza. Salveranno da terre paesi lontani, sono più che le stelle sui cieli Gazawi. Ora unite le forme, le forze, la flotta si scontra col vento del mondo che tace. Ma è la flotta più grande che la storia conosca, luci mare nel buio, una galassia nascosta. E Israele una morsa, reso Gaza una gabbia, ad ogni bomba che importa sogna la nuova Nakba. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo, a convergere in combora col cuore a babordo. Oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. E l'Occidente ora tace perché complice attivo, chiama non divisivo tutto il suo servilismo. Dice guerra ai confini ma non colonialismo, dice lungo conflitto invece che genocidio. Chiede pace fra parti ma non cambierà mai, chiude gli occhi sui campi, stragi, spari, apartheid. L'Occidente negli highlights si pente ma mente, mentre vende le armi piange sulle macerie. Ma una voce che rompe il silenzio ora un nuovo sentiero, viaggia forte, rincorre una rotta nel vento che fa free free Palestine. Prova a far differenza, Gaza è tutta la striscia, perché l'indifferenza non sia più il paradigma. Viene da tutto il globo dopo miglia su miglia, sostiene anche tu Global Summit Flottilla. E siamo con delle stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo. Allora, eccoci qui, perché si fosse collegato solamente adesso, questa puntata è stata dedicata al presidio per 175 attivisti rapiti da Israele della flottiglia, il presidio del 30 aprile. Ora, voglio dire una cosa molto quasi scontata. Quello che è successo è una cosa che non ci deve stupire. Che Israele abbia rapito degli attivisti che cercavano di portare gli aiuti in maniera così brutale, lo ha sempre fatto. Non dobbiamo mai dimenticare che ha anche ucciso, ricordiamo, la nave turca che voleva arrivare a Gaza, che furono uccisi diversi attivisti, gli spararono in faccia senza pietà. Dunque stiamo parlando di un paese terrorista, stiamo parlando di un esercito che non ha problemi a sparare in faccia anche a volontari. Non dimentichiamo quella volontaria che è stata investita, inglese, che fu investita credo proprio a Gaza da un bulldozer, la spianarono. Cioè, dunque stiamo parlando di persone che non hanno nessun problema ad uccidere. La novità questa volta è stato il fatto che il rapimento è stato fatto in acque territoriali greche e la marina greca tranquillamente ha permesso a Israele di rapire dei cittadini comunitari, e fondamentalmente il nostro governo per più di un giorno, anche insieme agli altri governi, ma il nostro governo è stato quello più incredibile, cioè non hanno detto niente, cioè non hanno convocato l'ambasciatore israeliano in Italia, non hanno riferito in Parlamento, ci hanno messo 2 giorni credo per fare questo, non so nemmeno se hanno convocato l'ambasciatore israeliano, questo mi sfugge. Ma fondamentalmente la questione è il Mediterraneo in mano a Israele. Cioè, loro possono fare quello che vogliono. Fondamentalmente questo precedente è gravissimo. Cioè, domani potrebbero anche andare in un peschereccio italiano e dire qua non potete pescare al largo della Sicilia. Perché insomma, il Mediterraneo è tutto israeliano. Questa cosa qui è davvero inquietante, perché ci fa capire il ruolo, il potere che ha Israele in tutto il mondo. E come può decidere le sorti del mondo e poi decidere le sorti dei paesi, può controllare completamente, c'è il controllo di metà del Mediterraneo almeno, in questa maniera, e con il beneplacito della NATO fondamentalmente, fa paura. Cioè, non dimentichiamo che la Libia, che vicino alle sue coste, arrestare pescatori italiani, scoppia dei problemi enormi a livello diplomatico. Cioè, questi sono arrivati fino a Creta. Questo ci deve far riflettere di quanto può essere servo del sionismo il nostro governo, ma non solo. Sì, abbiamo visto la Spagna che si è arrabbiata, si è indignata, cioè, certamente, forse la Spagna, ma la Grecia ha collaborato e nessuno ha detto niente alla Grecia. Cioè, non ha neanche richiamato Israele, sappiamo che è un paese terrorista, non viene sanzionato e dunque può fare quello che vuole. Domani manderà i suoi servizi segreti ad arrestare direttamente i palestinesi, così come non dimentichiamo, questo lo facevano gli Stati Uniti d'America durante la guerra al terrorismo islamico, dove le Torri Gemelle, vi ricordate che facevano i rapimenti in tutto il mondo senza nessun problema. Ma oggi Israele potrebbe fare la stessa cosa, potrebbe arrivare in Italia, prelevare dei palestinesi o dei attivisti e arrestarli e portarseli in Israele senza nessun problema. Siamo arrivati a questi livelli. Questo è pericoloso perché in questo momento la guerra in Iran non è ferma, c'è anche la guerra nel Libano, è sospesa, in che situazione siamo? Cosa che potrebbe accadere? Siamo in una situazione di potenziale guerra mondiale. È un paese completamente che nessuno sanziona, che sta distruggendo l'economia europea, siamo stati devastati dalla guerra in Ucraina e adesso veniamo devastati economicamente dalla guerra imperialista americana contro l'Iran. Io non ho nessuna simpatia per l'Iran, chi conosce il Panierosi sa, abbiamo intervistato spesso le compagne iraniane che lottano in Iran, però obiettivamente questa è una guerra imperialista che è fatta dagli Stati Uniti, e Israele vuole veramente creare la grande Israele, sta attaccando il Libano per impossessarsi i territori e vuole distruggere l'Iran e veramente vuole fare un cambio di regime. Molto probabilmente Israele è il paese che lo vuole fare di più, ma c'è una situazione davvero tremenda, cioè quando ci si noi, io lo dico spesso in fabbrica, cioè fare sciopero per la Palestina, per far finire la guerra in Palestina, perché gli israeliani la smettano di rubare territorio e di massacrare la gente e di smettere di distruggere, eliminare un popolo e commettere un genocidio, non stiamo solo facendo uno sciopero umanitario in solidarietà verso il popolo palestinese, per i diritti umani del popolo palestinese, per non essere complici di un genocidio. Stiamo difendendo il mondo da una potenza terrorista che nessuno osa fondamentalmente fermare, perché chi è che sta sanzionando Israele fondamentalmente in questo momento per quello che sta facendo? La Russia, che è una potenza mondiale, è sanzionata per l'attacco in Ucraina da più di metà del mondo. Oggi Israele ha in quegli ultimi anni ha attaccato 5-6 paesi forse senza ragione, fondamentalmente sta massacrando un popolo, ciò che non sta facendo la Russia, perché bisogna essere oggettivi, per quanto si vuole essere filo ucraini, la Russia non sta facendo un genocidio in Ucraina, non sta sta distruggendo Kiev come sta facendo Israele in Libano oppure a Gaza, cioè per farvi capire, non è, potrebbe farlo, ma non sta distruggendo completamente le città ucraine, sta facendo una guerra che è tremenda, ma eppure viene sanzionato più di metà del mondo, sanzioni pacchetti su pacchetti. Israele non viene sanzionato da nessuno fondamentalmente, oppure da pochissimi paesi che non hanno un valore, cioè nemmeno la Turchia fa delle sanzioni vere economiche contro Israele, ma per non parlare degli altri paesi arabi che sono complici di Israele. Siamo in una situazione veramente paradossale che può portare veramente a una terza guerra mondiale e o comunque a un disastro economico a livello planetario, che ne risentiranno i lavoratori e ne risentiranno i diritti dei lavoratori. Dunque non c'è solo la questione umanitaria, io lo continuo a dire, il Paese Rose non guarda semplicemente la pace come qualcosa che è giusta per a livello umano, ma anche perché la pace interessa i lavoratori, la classe operaia di tutto il mondo, per poter prosperare, per poter vivere in maniera dignitosa, per acquisire diritti, acquisire salario e poter e non dover fare la fame. Ecco. E si oppone alla barbarie, la pace. Come per far questo è chiaro che dobbiamo andare verso un mondo socialista, però in questo momento c'è un attacco ai diritti che è mondiale e nessuno ferma Israele. Questo è, nessuno ferma gli Stati Uniti d'America in questa guerra. Ecco perché speriamo nelle classi lavoratrici di Israele, americane e di tutto il mondo, che si uniscano per fermare questi pazzi imperialisti che stanno minacciando il pianeta. Ecco, io con questo appello spero veramente che si arrivi anche in Italia, come in tutto il mondo, a uno sciopero generale e fermi i capitalisti che si stanno arricchendo, perché poi ci sono degli interessi imperialisti, ma capitalisti di grandi multinazionali, parliamoci chiaro, tutto questo avviene perché dietro chi muove l'economia vuole tutto questo e si può fermare solo con gli scioperi generali a livello mondiale che fermino l'economia e portino i lavoratori finalmente al potere, speriamo che accada perché il mondo ne ha bisogno. Per la prossima puntata, ciao.